Il Papa, che in questo fine settimana onora e sconvolge la nostra città con la sua visita, si può descrivere, dando l'espressione un puro valore classificatorio, come un tipico Papa di massa. Uno di quei pontefici, cioè, che esercitano soprattutto la loro funzione, che manifestano, diciamo, la propria papitudine, e quando sono al centro di grandi eventi, appunto, di massa, con la partecipazione diretta di migliaia e migliaia di fedeli e l'assidua copertura dei mezzi di comunicazione. È un modello questo ormai universalmente affermato, al punto che non si può concepire un pontefice che non vi ci si attenga, ma è abbastanza recente. Risale grosso modo alle metà del secolo scorso e gli osservatori della mia generazione hanno avuto modo di seguirne l'intero sviluppo, dal discorso della Luna pronunciato da Giovanni XXIII in diretta televisiva verso la fine del suo pontificato, ai viaggi in Terra Santa, in India e in America di Paolo VI, ai bagni di folla che hanno caratterizzato ogni spostamento e ogni apparizione di Papa Wojtyła, colui che senza dubbio da questo rapporto personale diretto con le masse adoranti dei fedeli e dei pellegrini ha saputo trarre risultati più egregi, moltiplicando all'infinito il suo carisma e ponendosi tra i protagonisti assoluti sulla scena mondiale. Prima da allora, anche per mancanza di un'appropriata tecnologia di comunicazione, la persona del Papa era per quasi tutti i fedeli una figura remota, da venerare e obbedire a distanza. Le sue parole giungevano alla gente comune mediata attraverso la gerarchia. Ci sono stati papi eremiti, papi studiosi, papi guerrieri, papi santi e papi cortigiani, ma queste caratteristiche non erano di pubblico comune dominio. Soltanto i fedeli di Roma, che lo vedevano passare nelle strade cittadine sulla sedia gestatoria e avevano il privilegio di accedere alle informazioni sulla sua vita quotidiana che inevitabilmente filtravano sotto forma di pettegolezzi dai sacri palazzi, potevano vantare un rapporto di familiarità con quello che dopo tutto era il loro vescovo. Oggi, chi a tutti è dato osservare da vicino in televisione i lineamenti del successore di Pietro, quel rapporto speciale paradossalmente non c'è più. La sua ultima manifestazione forse risale a quando Pio XII scese di persona nelle strade di Roma bombardata il 19 luglio del 1943. Ma allora naturalmente la televisione non c'era e soltanto pochi spezzoni di cinegiornale restano a testimoniare l'evento. L'attuale pontefice, comunque, non si è calato nella parte con la disinvoltura del suo predecessore. È un uomo, da quanto è dato capire, per natura più riservato, più schivo del contatto diretto con il pubblico. Non è difficile leggere nel suo linguaggio corporeo un certo disagio quando si tratta di affrontare delle situazioni di questo tipo, ed è chiaro che si troverebbe più a suo agio nel suo studio. Tuttavia, fa propriamente del suo meglio. Qui a Milano, come in tutte le occasioni precedenti, se la sta cavando in modo egregio. Ha capito che il suo ruolo nella società moderna dello spettacolo è appunto un ruolo spettacolare, che queste sacre comparsate, per quanto modesto sia il loro contenuto in termini teorici e intellettuali, nel senso che un incontro mondiale delle famiglie, un meeting della gioventù o cose del genere, non hanno molto più valore teologico di un jamboree degli scout, che a questo è affidata la continuità del suo ruolo esclusivo. Oggi il Papa o è di massa o non è. Di eremiti, studiosi, cortigiani e guerrieri la Chiesa del nostro tempo evidentemente non ha bisogno. Stupisce a questo punto il contrasto tra una simile esibizione di modernità, tra questa folle immersion nel contemporaneo e quanto si è venuto a sapere sulle pratiche correnti in sede di amministrazione centrale della Chiesa. Un campo al quale sembra che il nostro Benedetto, a differenza del suo predecessore, non sia particolarmente interessato. Abbiamo scoperto l'esistenza in Vaticano di una piccola corte di tipo medievale, con tutto il suo corrego di intrighi, correnti, favoriti, eminenze grigie e anime dannate, come in un brutto romanzo di Cappa e Spada. Nello stesso appartamento pontificio, ci dicono, si aggirano corvi e maggiordomi infedeli intenti a trafugare e diffondere documenti riservati e carte segrete, senza che il principale, che pure ha le prerogative e poteri di un sovrano assoluto, non ci possa far niente. Quale sia l'oggetto del contendere di questi intrighi di palazzo, dai commenti di stampa o dallo stesso volume che li ha suscitati, non è veramente dato comprendere. Né in fondo a noi laici veramente interessa. È probabile, come spesso succede, che si tratti di un problema di soldi e di potere, e specificamente del potere di gestire i soldi. Un potere all'attrazione del quale non c'è cotta cardinalizia o mito a vescovile che possa resistere. Quello che è certo è che il povero Ratzinger, di fronte a tutto questo casino, rivela una curiosa conformazione alla Jekyll and Hyde. Lui, che da prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, Santo Uffizio, sembrava così risoluto, una volta assunto al sacro soglio si è rivelato più incerto e malleabile di quanto ci si sarebbe aspettato, dando spazio a tutti coloro che alle sue spalle agitano i propri personali progetti. E così, dalla modernità esibita dei suoi incontri di massa, gli tocca precipitare negli intrighi medievali della sua piccola corte. Povero uomo, alla sua età deve essere davvero stressante. È anche vero che farsi eleggere il Papa non è obbligatorio e che a causa del proprio male non può che accusare se stesso. Sì, permettetemi una chiosa dalla quale, come esperto riconosciuto di letteratura poliziesca, non posso sottrarmi. È stato detto da molti, dopo l'arresto dell'assistente di camera Paolo Gabriele, che come in tutti i gialli che si rispettano si era scoperto che il colpevole era il maggiordomo. Beh, chi ci sia dietro tutta la faccenda io non lo so, ma è poco ma sicuro che in tutti i gialli che si rispettano il colpevole non è né può essere il maggiordomo. Attribuire la responsabilità finale del crimine a quel rispettabile professionista sarebbe una soluzione al tempo stesso troppo facile e troppo macchinosa, di quelle che un autore degno di questo nome e vicio alle tradizioni del genere non si permetterebbe mai di adottare. Di fatto, tra le molte migliaia di gialli che ho letto in vita mia, non me ne ricordo uno solo che risolva in quel senso l'enigma proposto all'investigatore e ai lettori. E siccome la vita notoriamente imita l'arte, sono pronto a scommettere che l'identità effettiva del corpo sia ancora tutta da scoprire. È un peccato soltanto che quando lo troveranno non ce lo diranno mai.